40 anni che Don Angelino Villa Ceballos aspettava questo momento. Si era intortato come un ulivo. Certi giorni non si poteva manco arremanare e gli dovevano puliziare il culo come un caruso. Aveva perso la vista e i denti. Ma pazienza e pazienza, sempre aveva pregato Dio che lo riducesse pure buono solo a fare ombra. Ma prima di chiudere gli occhi, la grazia della rovina di Totò Barbabianca doveva fargli. Spasimava per vederlo lui coi suoi occhi, questo fumo della nave russa che significava la tomba, il tabuto di Totò Barbabianca e dei suoi figli. E invece doveva farselo contare dagli occhi di un servo. Intanto l'ingegner Lemonnier, torinese sì, ma uomo abile e pronto nella sua materia, la meniera, un dio che nei 2 anni di permanenza a Vegata aveva imparato a capire qualche cosa dei siciliani. Entrando al circolo dei nobili per parlare col marchese Simone Curtot Baucina di una faccenda della maniera, aveva sentito sulla pelle come una ventata, uno spiffero fresco. Ecco, era esattamente questa la sensazione che l'aveva spinto a chiedere: «Ditemi subito cosa è successo». «S'è fottuto Romeres», rispose padre Imbornone, sulla cui faccia decassata, come un anonimo aveva scritto in un volantino distribuito in piazza qualche tempo prima, si specchiava tutta intera la dissolutezza. Perché mai uomo fu così brutale nei piaceri sensuali per i quali profonde il denaro? Ma che ora come ora rifletteva solo gioia maligna nel brillio degli occhietti porcini. «Perdonino, ma chi è questo Romeres?» «Ah, già è vero, Lemonnier, lei lo conosce come Salvatore Barbabianca». «Perché Don Agostino Barbabianca non si chiama così?» «Lei non è di qua», premise padre Imbornone. Deve dunque sapere che Barbabianca era un soprannome. Un'ingiuria che era stata data a Romeres 50 anni fa, quando si trasferì a Vegata, se la fotte lui da dove. Faceva il vasaio, fabbricava bummole, va?» E di conseguenza la barba sembra aveva lorda decreta e bianco gesso. Ecco l'origine dell'angiuria. E da povero vasaio è riuscita a diventare questa potenza? Sì signore, un vero, come si dice, self-made man. Un vero e proprio fotte-made man, corresse padre Imbornone, tanto per parlare spartano. E seguitò: è un uomo che da noi ha fatto più danno di una fera. Ed era giusto, perché Barbabianca è la schiuma di questa nuova società che insegna a non avere il rispetto di nessuno. «E ci siamo con la solita musica», intervenne il marchese Curtò, che fino a quel momento aveva fatto scena muta. «Si lasci pregare, caro marchese Curtò, da uno che la sa più lunga di lei, con tutto il rispetto che le è dovuto. Barbabianca è una merda che ha galleggiato su tutto il fogname delle idee che ci ha regalato l'unità. Prima liberale antiborbonico, poi spia dei garibaldini, poi iscritto alla società massonica», fece padre Imbornone pigliando fuoco come uno zolfanello. «Che se minimo minimo se la scapocchia oggi da questa disgrazia che gli sta capitando, lui domani sarà pronto a mettersi al lato a quelle teste calde dei De Felice Giuffrida, dei Bosco, dei Verro, a queste che hanno tirato fuori la storia dei fasci siciliani e si riempiono la bocca di minchiate come eguaglianza sociale, emancipazione, collettivizzazione. Non capisco dove voi volete andare a parare». «Io non paro niente, greggio, è lei che deve andare a parare il culo». «Cerchiamo di non bisciare fuori dall'orinale, padre Imbornone». «Domando scusa, perdo facile la testa. Davanti a queste cose ci vedo rosso. Voglio dire che io mi gioco il giocabile che appena questi pazzi cominceranno a fare gli scioperi, il capentesta sarà il nostro Barbabianca che con una bella bandiera rossa in mano si metterà a fare voce. Quello che è nostro è suo e quello che è suo deve restare suo. E lei, le sue miniere, me le potrà salutare. Quando verrà quel momento le saluterò con piacere. Io, privo di Dio. Quando la sento ragionare così, mi domando se nelle vene lei ha per davvero sangue da nobile. Ma che cazzo volete dire, eh? Spiegatemi meglio, se ne avete il coraggio.